tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. La notizia data dal Messaggero apre questa puntata. Il Papa licenzia 5 funzionari senza aspettare la fine del loro processo civile per lo scandalo dell'acquisto di un lussuoso palazzo a Londra. Insomma, vedremo come evolve la situazione e le dichiarazioni dei licenziati. Sempre il Messaggero qualche tempo fa titolò: scuole cattoliche a rischio bancarotta, una su tre non riaprirà in autunno, speriamo. Poi abbiamo il suicidio del prete Don Diego Pirovano a Cologno Monzese. Si è gettato dalla finestra il 20 aprile, dalla finestra della canonica. Lascia una lettera: non ce la faccio più. Poi passiamo a Don Viola di Gallignano, in provincia di Cremona, che si è buscato una multa di 270 euro per aver detto messa nonostante la presenza in chiesa dei carabinieri e nonostante le leggi sul coronavirus. A proposito di coronavirus, segnaliamo che il numero dei preti deceduti in questa gravissima epidemia al 1 maggio è di 118 preti defunti, mentre il 30 marzo eravamo a 79 preti defunti. Sempre sulla speciale coronavirus, da 7 giorni un periodico del Milanese, preti ribelli a Baranzate. Cari vescovi, volete le messe? Venite voi a sanificare le chiese. Polemica dichiarazione del parroco di Baranzate, Don Paolo Stefano, che si scaglia contro i piani alti della Chiesa, un anticlericale. Allora, cosa dichiara? Che i vescovi sarebbero pastori tristi, nostalgici e poco illuminati. Poi abbiamo lo scandalo del 30 aprile 2020, botte e insulti ai disabili. Arrestati due operatori della villa Sacro Cuore di Gesù a Settimo Milanese della Fondazione Sacra Famiglia. Poi passiamo ai dati storici. 17 aprile 1797, lunedì di Pasqua, scoppiano le famose Pasque Veronesi, che si esplicarono anche nel massacro dei soldati francesi che erano ricoverati in ospedale sia per le ferite di guerra sia per malattie. Furono uccisi nei loro letti e infilzati. Ricordiamo l'8 novembre 1440, passiamo da Verona alla provincia di Trento, nell'altopiano di Folgaria avviene un massacro da parte dei soldati del principe vescovo di Trento, i quali saccheggiano, incendiano, uccidono, deportano intere famiglie, vengono distrutte in quanto ribelli al potere del principe vescovo, che era il loro feudatario. Dal mio libretto Piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale facciamo un paio di definizioni: aristocrazia fornicatrice e la curia romana che usurpa il nome della chiesa quando invece è soprattutto debita a traffici affaristici e orgiastici. Arroganza istupidita è quella dei cristiani dei primi secoli, praticata come scelta di vita. Fu una specie di beata ignoranza che invitò a rinunciare alla filosofia classica per abbandonarsi al mito cristologico. Per loro Socrate era solo il pagliaccio di Atene. Passiamo al calendario anticlericale. Ricordiamo che il calendario 2021 tratterà del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, 1321, il quale mise 5 papi all'inferno, anche vari frati e un arcivescovo, e fece dichiarazioni molto pesanti contro la curia romana. 26 aprile 2018, chiese pedofilia. Reso noto l'arrivo dal Cile di 3 vittime dei preti pedofili, il Papa gli chiederà perdono. 27 aprile 2014, scandalo finanziario in diocesi a Potenza. Prestati 45.000 euro ad un avvocato di Forza Italia, ovviamente mai resi. 28 aprile 2016, ricatti hard a prete gay all'Aquila, giovane amico del prete condannato per estorsione, rivelava le loro sms erotiche notturne. 29 aprile 2016, Arese in provincia di Milano. Violenza sessuale su un quindicenne, nei guai prete pedofilo e un educatore, tra virgolette, salesiano. 30 aprile 2016, Stati Uniti. Giornalista cattolico licenziato dal periodico clericale per un tweet pro-LGBT. Accadde nel mese di aprile 1306. Abusi dell'Inquisizione a Carcassonne in Francia, dove è stato preparato un museo dell'Inquisizione di cui raccomando tutti la visita. Troppi detenuti da anni senza processo, perfino il Papa avvia un'inchiesta. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Per eventuali consigli, notizie e informazioni potete chiamarmi al 331-730-2874. Saluti a tutti. Tutti.